quello che ci dice oggi l'INPS di fatto è questo crollo mese dopo mese, ma che comincia a raggiungere le vette non più in qualche modo riassumibili in uno slogan del contratto a tempo indeterminato, una volta appunto che gli sgravi sono diminuiti. Vi dico, per dare i numeri ne daremmo pochi, però nei primi 8 mesi del 2017 in Italia il numero di contratti a tempo indeterminato sono stati meno 290.000, significa che il numero di cessazioni rapporti per pensionamenti, per licenziamenti, dimissioni e quant'altro superano i nuovi contratti di questa cifra, che appunto è oltre le 200.000, mentre allo stesso tempo i contratti a termine continuano ad avanzare e quindi in qualche modo a occupare preponderantemente il mercato del lavoro con un più 800.000. Allo stesso tempo notiamo però appunto che questa occupazione è un'occupazione sempre più povera, un'occupazione che rasenta sempre di più la sottooccupazione, ovvero il numero di posti di lavoro creati anche a tempo determinato è inferiore al numero di contratti. Questo significa che più persone vanno a lavorare nello stesso posto di lavoro, occupano lo stesso posto di lavoro attraverso i vari contrattini, i part-time involontari, la sottooccupazione, i tirocini o il lavoro gratuito che si alterna a altre forme contrattuali. E quindi su questo, diciamo che questa è un po' la figura che la realtà ci dà in risposta a quelle che sono le dichiarazioni di istituzioni che non sono mai state imparziali né tantomeno hanno veramente indagato sulle condizioni del mercato del lavoro in Italia, perché sì, l'OCSE ieri dice questa cosa qui, poi è lo stesso istituto che 15 giorni fa invece esaltava le riforme del mercato del lavoro italiano, tra cui appunto il Jobs Act. Come se non ci fosse un nesso di causalità. Esatto, perché noi sappiamo che il Jobs Act non si compone soltanto dell'abolizione dell'articolo 18, ma il primo passaggio del Jobs Act, il primo atto è stato la liberalizzazione del tempo determinato e quindi anche la modifica delle sanzioni per quelle imprese che fanno troppi contratti a termine rispetto all'organico strutturato. E allo stesso tempo noi sappiamo oggi, grazie ai dati dell'INPS, che sì, hanno fatto finta di abolire i voucher, li hanno resi un po' più in realtà soltanto amministrativamente diversi, perché poi possono essere utilizzati dalla maggior parte delle imprese italiane, ma al loro posto avanza in maniera davvero come se fosse un rapporto di sostituzione uno a uno il contratto a chiamata. Per avere le cifre, il contratto a chiamate, quindi lavoro intermittente, quello che si paga ore, aumenta nella sua fattispecie a tempo indeterminato, che poi non lo è perché non è un rapporto di lavoro che dura 8 ore al giorno, no, 6 giorni alla settimana, comunque del 30%, e con dei picchi all'interno di alcuni settori, tipo la logistica, il magazzinaggio, cose di cui abbiamo parlato molto e che sono esattamente l'espressione di quanto usa e getta sia oggi il lavoro all'interno dei processi produttivi, di oltre il 150%, che però appunto non è soltanto questi settori qui, ma oggi anche la manifattura italiana registra un aumento del contratto a chiamata rispetto allo stesso periodo, quindi i primi 8 mesi del 2016, di oltre il 137%. Questi sono risultati di politiche di liberalizzazione e appunto di sostituzione di forme contrattuali sempre comunque al ribasso. C'è poco da gioire, se questo è il mercato del lavoro che vogliono, noi possiamo dire che appunto Draghi è un fautore, un sostenitore del lavoro povero, del lavoro senza tutele, del lavoro sottopagato. Se questa è la loro idea di società e del mondo del lavoro, sicuramente possiamo dire di non essere né sulla stessa barca né soprattutto di avere la stessa idea di società. Lunedì scorso il Consiglio dei Ministri ha licenziato la legge di bilancio, la finanziaria. Abbiamo avuto modo su queste frequenze di commentarla insieme a Giacomo Bracci, però una battuta vorrei chiedere anche a te, in particolare ritornando al tema dei giovani, no? Si diceva i giovani sono forse la categoria più povera e senza lavoro, il governo conta di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei giovani attraverso degli sgravi, dei risparmi diciamo sui contributi alle aziende. Suona un po' come i contributi, gli incentivi dati appunto per l'assunzione di tutte le fasce anagrafiche che abbiamo visto appunto in seguito all'approvazione del Jobs Act. In un certo senso sì, ovvero è sempre quella politica dell'offerta che tende a spostare risorse pubbliche a favore delle imprese. Dall'altro lato però c'è da dire due cose: gli sgravi per i giovani sono in essere a causa della legge di stabilità del 2016, se guardiamo sempre i dati dell'INPS oggi ci dicono che di contratti a tempo indeterminato per i giovani, usufruendo lo sgravio dato alla legge di stabilità del 2016, sono soltanto circa 22.000, quindi 300.000 posti in più che vorrebbero raggiungere attraverso gli sgravi con questa nuova legge di stabilità sembrano davvero una presa in giro. Allo stesso tempo, proprio per quella fascia di età giovanile, noi sappiamo che abbiamo tutte forme di lavoro il cui costo per le imprese è ormai quasi zero, cioè abbiamo il lavoro gratuito dell'alternanza scuola-lavoro, abbiamo i tirocini dove appunto non dobbiamo neanche pagare i contributi, cioè valgono 300-400 euro al al mese, se non abbiamo bisogno di stipulare un contratto a termine o un contratto a tempo indeterminato. Quindi se vogliamo creare buone nuove occupazioni, sicuramente e soprattutto con delle forme contrattuali, quindi comunque dentro un contratto di lavoro subordinato, salariato, eccetera, basterebbe non dare delle risorse che poi sono quelle che vengono sottratte alla scuola, alla sanità, all'edilizia pubblica o al trasporto pubblico locale, eccetera, basterebbe abolire nettamente queste forme contrattuali in cui appunto il lavoratore viene riconosciuto zero e che però appunto le imprese possono utilizzare. E sappiamo benissimo che le imprese, nel momento in cui possono utilizzare con gli stessi parametri qualcosa che costa meno, utilizzeranno quello, perché l'obiettivo delle imprese è il profitto, non è sicuramente il processo sociale, il progresso sociale. Quindi insomma dovremmo aspettarci un flop anche di questa misura? Ma in un certo senso sì, poi avremo sicuramente una piccola bolla come è stata quella grande, no, del 2015, ma in un certo senso noi sappiamo che le imprese occupano e impiegano più lavoratori nel momento in cui lavorano, ovvero hanno produzione, commesse e quindi vendono. Se le aziende italiane si trovano davanti una domanda aggregata, che è quella appunto fatta dei lavoratori e poi dei cittadini che sono sempre più poveriti, e quindi questa domanda crolla e crolla anche la spesa pubblica per le imprese, ovvero le commesse, gli appalti pubblici, piccoli o grandi che siano, sicuramente non hanno nessun incentivo ad assumere, perché sarebbe un costo senza nessun guadagno. Quindi è proprio una linea, diciamo, a perdere, quella che abbiamo vissuto ormai in questi più che 10 anni.